oggi, una contea di Venosta, su cui si discute e non mancano anche le riserve e i dubbi, poi parlano di un comitatum Bausanum, che appunto in questa occasione, 1027, fu stralciato da quella che era la vecchia contea di Norital, comprendente la valle dell'Isarco e il Vittal, per darlo al vescovo di Trento. Qui c'è stata probabilmente una precisazione di confini per quanto riguarda dunque l'ambito del comitato nuovo assegnato a Trento nella valle dell'Isarco, che nel documento assegnato a Trento viene collocato un po' più a nord, cioè sul torrente Bria, sulla sinistra dell'Isarco, affluente che entra nell'Isarco a Blumau, frate Isarco, e invece da documenti di Bressanone dovremmo pensare sia stato corretto piuttosto portandolo al rio della Val d'Elda, all'Egenbach, nei pressi di Cardano. Tutto questo per quanto riguarda la sinistra Isarco. Invece l'Isarco forma confine per un tratto notevole, praticamente fino nei pressi di Chiusa, dove la valle che estende da Belturno col Cineba era l'altro confine sulla destra dell'Isarco. Dunque questo da un lato l'ambito donato a Trento in quell'occasione. A questo si aggiunge il grosso della donazione, cioè il comitatum tridentinum, cioè l'ex ducato longobardo in tutta la sua estensione, con i vecchi confini sostanzialmente invariati, con un unico ritocco esplicitamente ricordato nel documento del 1027 per la zona della Val Sugana, almeno anche qui è questione di interpretazione, ma ponendo il confine presso Novaledo al Maso di San Desiderio, mentre da altri documenti parerebbe che il vecchio comitato longobardo da questa parte abbia avuto un'estensione di una cinquantina di chilometri più in là, cioè si sia portato fino al Cismone. Allora in questa operazione si sarebbe avuta una decurtazione del ducato longobardo in Val Sugana per assegnare a Feltre una porzione maggiore di questo ex ducato longobardo di Trento. In compenso si sarebbe avuto uno stralcio della vecchia contea di Norital nella zona di Bolzano, creando ex novo la contea di Bolzano che fu pure assegnata a Trento. È il caso forse di riflettere un attimo anche sulle concordanze o discrepanze dai confini diocesani, che certamente hanno un rapporto, un qualche rapporto con questi confini politici, perché grosso modo si può dire che coincidano. Discrepanze ci sono in Val Sugana, sostanzialmente, dove il confine con la diocesi di Feltre entra molto di più verso Trento, evidentemente mantenendo i suoi vecchi confini, la Pieve di Pergine in sostanza rimane e la Pieve di Calceranica rimangono di Feltre, anche se diventano, per quanto riguarda il potere temporale, trentine. Poi entra in questi confini civili il territorio di Brentonico, dove invece Avio e Brentonico rimangono essenzialmente con Verona per un tempo illimitato, e una piccola variazione di confine rispetto al confine ecclesiastico presso Maia, dove il confine ecclesiastico arriva fino al Passirio, che rimane fino al Passirio, chiesa di San Vigilio a Maia, e invece il confine civile è portato alquanto più in giù fino al rivo di Gardasone. Questo brevissimamente per un'inquadratura dunque della situazione iniziale. Situazione finale. 1803. Osservo tuttavia che è una situazione già consolidata da secoli, in gran parte consolidata già dal secolo XIV, soprattutto per Bressanone, e completata sostanzialmente nella prima metà del secolo XVI per Trento, con le ultime acquisizioni di Pergine, per esempio, da parte del vescovo di Trento e così via. Ecco dunque una situazione che riflette una serie di attestamenti che hanno avuto luogo tra il 1200 e il 1530. Bressanone, possiede nel 1803 ancora, dunque al momento della sua morte, il circondario giudizio di Bressanone città, con giudizio di corte, hof, e giudizio cittadino, Sacchieri, con i giudizi immediatamente adiacenti di Albain, Salvino, Pepperster, Monte Ponente, Salern, Villa Mayer e Niederwinkel, Vandoyer, più il hofgericht, il giudizio immunitario di Luzon. Poi possiede inoltre il Principato Vescovile di Bressanone, Brunico, sostanzialmente ridotto alla città con la valle di Anterselva, più ancora Chiusa, il giudizio di Chiusa, con i giudizi adiacenti di Laspon, Verdignes, Velturno e Pire. A questo vanno aggiunti i distretti, i tre distretti ladini di Turn, parte della Val Badia, Livinallongo e Fassa. Rispetto alla situazione di Trento, una costellazione molto più frammentaria, un territorio molto più discontinuo. Complessivamente Bressanone ha al momento della soppressione 900 km quadrati di estensione con 26.000 sudditi, più alcuni territori ancora che si possiedono fuori dai confini tirolesi. Anras nella valle della Drava e il dominio di Feldes in Carniola, che però ha solo diritti patrimoniali e già spogliato largamente di diritti pubblici. Trento al momento della secolarizzazione ha un territorio molto più compatto invece, anche se si presenta circondato a sud da una serie di domini tirolesi, i cosiddetti Welse Confinen, che si possono vedere molto bene sulla cartina, sono la bassa Valsugana con Primiero, Rovereto col suo circondario, la zona di Arco e l'ultima coda in fondo la contea Lodron. Questo insieme di domini formano quasi una cintura di sicurezza che già dal secolo XV sono di dominio tirolese diretto e che dunque si trovano tra il Principato di Trento e il resto del territorio italiano. La consistenza territoriale è molto più notevole che per Bressanone. Si hanno qui circa 4.000 km quadrati, 147.000 abitanti, il che rappresentava allora circa un quarto del territorio tirolese complessivo. Ecco, così impostato lo sfondo, la pena, diremmo, della vicenda storica, passiamo al capitolo seguente che vorrebbe considerare il complesso degli interventi giuridici e la natura dei diritti che furono conferiti ai due vescovi, che costituiscono almeno in teoria, sulla carta, il loro potere temporale, che definiscono il loro potere temporale. I due capitoli, appunto, che ancora seguono sono dedicati l'uno piuttosto ad una descrizione dello stato di diritto, il secondo invece ad una descrizione dello stato di fatto, cioè al modo come questi diritti sono stati realizzati. Una parola sulle circostanze che hanno portato alla costituzione di questi due nuclei di potere temporale del Covid. Non intendo richiamare le circostanze generali, neanche quelle più, direi più largamente attinenti alla storia locale, ma quelle più immediatamente vicine agli atti di costituzione, che sono da un lato le esperienze di Enrico II nella sua difesa in Italia nel 1004, dove trovò le chiuse veronesi e anche della Valsugana più sbarrate e sperimentò l'importanza, la convenienza di spezzettare la marca di Verona per assicurarsi meglio il passaggio. E nel 1027 la ribellione invece del duca Ernesto di Baviera, a cui attineva il conte Welf, che aveva in mano la contea di Norital in quel tempo, che anche fece capire all'imperatore l'importanza vitale di avere sulla via del Brennero dei feudatari assolutamente fidati. Ricordo ancora come il 19 maggio del 1027, A Verona si ebbe quella decisione famosa, ricordata dal professor Schlidinger per Aquileia, dove ad Aquileia, presenti il vescovo di Trento stesso, pochi giorni prima della erezione dei vescovi, dei vescovati di Trento e di Bressanone, quindi 10 giorni prima, veniva conferito quel diploma di esenzione, dichiarata quella esenzione dal potere ducale per i territori immunitari di Aquileia. Ovviamente l'operazione sta in quella orbita. Consideriamo prima di tutto l'operazione giuridica di potere vescovile per Trento. A quanto vedo, la storiografia trentina tende piuttosto a privilegiare l'acquisizione dei diritti di contea da parte di Trento come un blocco di competenze completo e istantaneo, che arrivano fin dal primo momento alla sovranità pratica, cioè al ducato, all'ottenimento di autorità ducale. Questo giudizio, questa impostazione è senza dubbio giustificata dalla famosa donazione del 31 maggio 1027, di cui al punto 2 dei documenti avete il testo preso dalla edizione nel Monumenta Germania, che dove l'imperatore Corrado conferisce al vescovo di Trento Udalrico II di questo numero comitatum tridentinum cum omnibus sui pertinentis et utilitatibus illis tribus eum duces comites martiones ucusque benefici nomine avere visitum. Questo viene conferito alla Santa Tridentina Ecclesia in proprium in perpetuum damus tradimus atque confirmamus. Non mi soffermo su queste parole, su cui abbiamo discusso ieri, queste forme molto larghe di donazione, perché nella forma il passaggio di proprietà. E invece sottolineo quel che segue: cum districti classici funzionibus et redibitionibus. Dunque, potere coercitivo, dicevamo, potere giudiziario, classicis, funzionibus, diritto di riscuotere tributi, se non erro, et redibitionibus, diritto di incassare e di imporre multe e soddisfazioni. E infine segue ancora l'esenzione esplicitamente espressa, con esenzione da ogni dus, marchio, comes, vice comes, castaglio. Dunque un potere di rango ducale. È detto due volte, viene dato il potere che arrivano i duchi, i marchesi, eccetera, ma sottolineo soprattutto questo discorso relativamente ai duchi. Abbiamo sentito per Aquileia cosa voleva dire a questo punto l'esenzione non solo dal conte ma anche dal duca, dal ducato, e appunto anche in termini inversi e esclusivi la esenzione dal duc medesimo, un potere dunque ducale. Il caso si verifica per Trento ovviamente con un riferimento a quello che era stato e ancora si sentiva in qualche maniera l'eredità del ducato longobardo. Esenzione dal duca, chi era il duca che eventualmente poteva ancora fino a quel tempo rivendicare una sua supremazia sopra il ducato, sopra il comitato di Trento? Ovviamente è il duca di Carinzia e il supremo reggitore della Marca Veronese. Questo discorso è tanto vero che il primo titolo che noi troviamo usato dai vescovi di Trento nel secolo XII come espressione della loro potestà non è quello di principe, che si riscontra solo dal secolo XIII, mi pare un po', ma è quello di Dux, Marchio e Comes. Dux, Marchio e Comes, così si dichiara questo titolo. Bene, dunque questo riguarda però la donazione citata ora, riguarda la donazione del ducato, dell'ex ducato longobardo di Trento, con le precisazioni che ho fatto prima. Si aggiunge con un documento emanato pochi giorni dopo, e con formula del tutto analoga, la donazione della contea di Bolzano e, diciamo tra parentesi, di quella di Venosta, Il documento non è conservato in originale, ma solo in trascrizioni più tardive. Si è discusso all'infinito sulla sua autenticità, sull'autenticità formale o sull'autenticità di contenuti. Ho l'impressione, anche dagli ultimi scritti di Stoll, che insomma, almeno così indirettamente ammetta che la stessa donazione della Venosta, anche se forse non è stata espressa con questo documento, ripeto, per molti versi contestato, ma che abbia fatto corpo di una donazione di quegli anni avvenuta con quei criteri. Ecco dunque come chi guarda questi documenti per Trento è portato senz'altro a riguardare la costituzione dei poteri temporali come un fatto istantaneo e completo, globale. Però, se guardiamo bene, anche qui non mancano le tracce di una genesi che è, anzitutto, cronologicamente molto più graduale. C'è memoria in Liutprando di Verona, che parla del vescovo Manasse, già ricordato in questa sede, 945, che ottenne il vescovato di Trento in modi non del tutto ideali tramite la politica del re Ugo di Provenza. Dice di lui: Tridentinam adeptus est marcam. Ottenne, oltre al vescovato, anche la marca tridentina. Quo impellente diavolo, continua Liutprando, dum miles est incipiret episcopus est designeret. Liutprando era meno tenero che il professor Morvers, il principale, lo vedi, si vede. Poi abbiamo una conferma del 1161 dove l'imperatore Federico Barbarossa, confermando i poteri temporali al vescovo, allude ad una prima donazione di re Enrico II, si ritiene, che gli studiosi hanno rilevato e ricostruito ipoteticamente, ma con buon fondamento, e che la si sarebbe dunque presumere un precedente di una donazione sostanzialmente del Ducato Longobardo nel 1004, prima del 1027. E abbiamo il conferimento di una regalia mineraria nel 1189, che a quell'epoca era ancora di spettanza imperiale. Ecco dunque tracce di uno sviluppo più graduale, anche di un territorio meno compatto. Meno compatto per acquisizioni extraterritoriali, si sa di qualche acquisizione di competenze temporali fuori dell'ambito fin qui descritto. Sotto Udalrico I e Udalrico II si parla di un tentativo almeno di acquisire mediante permuta con Frisinga la corte di Godego, probabilmente presso Monte Belluna, che poi non fu perfezionato, comunque si vede. Poi il vescovo di Trento compare nel secolo XI come signore dell'abbazia di Gironda nel Cremonese, e questa mattina è stato ricordato il caso di Castellaro Mantovano, conferito nel 1082 da Enrico IV al nostro vescovo Enrico I. Ecco, da un lato dunque minore compattezza territoriale per acquisizioni extraterritoriali. Poi, entro il territorio descritto, noi registriamo anche la esistenza di territori immunitari che rendono dunque questo potere ricevuto dal vescovo di Trento meno uguale a se stesso, meno uniforme in tutte le sue parti. Si ricordano soprattutto la regione immunitaria appartenente al capitolo di Verona in Giudicarie, Bregusto, Bolbeno e Bondo, che figura come tale anche con alta giurisdizione dipendente da un vicecomes nominato dal capitolo di Verona fino al 1284. La corte di Riva appartiene al vescovo di Verona entro il secolo XII. Il capitolo di Trento possedeva una zona immunitaria molto consistente qui nella regione di Villa Montagna, sopra Trento, e poi nella regione di Sauveur, che è stata da esso mantenuta fino ai tempi recenti, con Merum Mixtum Imperium, con giurisdizione alta e bassa, più una serie di altri frammenti di giurisdizione che invece di immunità, di proprietà immunitaria, che invece non hanno maturato una giurisdizione completa. Poi c'è una immunità del monastero di San Michele all'Adige, di cui avevo parlato ieri, piuttosto tardiva, dopo il 1145, nel paesino di Paonia di Sotto, non su tutto il territorio di proprietà del monastero. Questo per la regione, direi, del Trentino. Non menzioniamo minutamente le molte immunità di monasteri tedeschi in Alto Adige. Per quanto riguarda questa proprietà di monasteri nel territorio attribuito al Vescovo di Trento, certo i vescovati tedeschi hanno una serie di proprietà e anche di proprietà con parziale immunità nel Comitato di Bolzano e in Alto Adige, ma queste proprietà vanno rarefacendosi e poi scomparendo invece nel Trentino. Dunque, anche qui abbiamo una situazione alquanto differenziata. Questa situazione si differenzia poi fortemente, in terzo luogo, per la diseguaglianza con cui la stessa autorità comitale dei vescovi si realizza sui vari territori. Perché di tutti i territori che ho menzionato prima come attribuiti al Vescovo di Trento, certo è che nella Venosta la supremazia del Vescovo di Trento appare fantomatica. La contea appare fin dall'inizio della documentazione che noi troviamo tutta in mano dei conti di Tirolo. Per Bolzano, per il comitato di Bolzano, il Vescovo possiede la sua autorità in compartecipazione, in consorzio con i conti di Bolzano e col conte di Tirolo. Invece per Trento rimane una proprietà più diretta, più immediata del Vescovo, ma anche lì corrosa da una serie di immunità laiche che vedremo. In un documento del secolo XII che porto qui riprodotto e che fa riscontro ad una decisione della dieta imperiale di qualche anno prima, si distingue molto bene un triplice ambito di terre di soggezione vescovile per il Vescovo di Trento. Terre dove il Vescovo ha dato via completamente, nelle quali egli non si è conservato niente di proprio, ed è il caso della Venosta. Terre che egli ha conferito ad altri, ma con compartecipazione sua, e il Ducato quem vobis totum retinuisti. Ecco, Bolzano appartiene piuttosto alla seconda categoria e Trento, con le limitazioni che vedremo, piuttosto alla terza. Ducatum, dunque, è il documento 4. Il neocomitato con vobi totum retinuisti. Si tratta della licenza di costruire un castello senza permesso del vescovo o con permesso del vescovo. È necessaria la licenza del vescovo, i neocomitatum quem vobis totum retinuisti. Sive i neocomitatum in quo societatem vel comunitatem seu alitis aliud abetis. Sed si alitis comitatum aliquem per vos habet, et eum de vestra concessione ita sibi totum definet, ut i neo nisi penitis abeatis. In questo caso non occorre licenza del vescovo per costruire un castello. E ho preferito questo documento all'altro che è stato giuridicamente molto più importante, si trova nel Guter, al numero 400, primo volume numero 414, un lodo imperiale del 1184, dove nella dieta di Hagenau questa tripartizione è stata sancita con un lodo imperiale. Bressanone fa risentire, anche per lo stato della documentazione che qui, come ho detto, è molto più copiosa per il tempo di cui parliamo, fa risentire molto maggiormente la progressività del costituirsi e il ruolo grandissimo della immunità in questa genesi. La contea a cui noi trentini guardiamo quasi esclusivamente appare invece nell'ambiente di Bressanone come un elemento accanto agli altri nello sviluppo del Principato Vescovile. Vediamo brevemente i principali atti di impianto. Per l'anno 845, nell'anno 845 abbiamo un privilegio di immunità per la Chiesa di Saviona rilasciato da Ludovico il Germanico, che può considerarsi come una formulazione paradigmatica di quella che abbiamo detto ieri, la immunità di tipo carolingico, la immunità più densa. Lo abbiamo nel allegato terzo. Io adesso non lo leggo in particolare, ma rilevo semplicemente che questa immunità, per volontà dell'imperatore, è estesa a tutte le proprietà vescovili, presenti e future, che in questo documento viene inibito ai funzionari pubblici l'esercizio di determinate funzioni enumerate in particolare qui come procedimenti giudiziari, incasso di prede, Riedelgelder, ospitalità e albergarie, esercizio di coercizione sugli uomini, sugli homines et ecclesiae, riscossione di tasse. Queste cose sono escluse dai territori proprietà della Chiesa di Bressanone oggi o in avvenire. Il documento non dice esplicitamente che queste funzioni levate ai funzionari pubblici vengono adesso attribuite al padrone dell'immunità, però questo, come sappiamo, è implicito e indirettamente si induce da simile formulazione. Indirettamente tali competenze vengono riservate a chi? Al signore della immunità, non nel senso che lo Stato vi rinunci, ma che gli obblighi verso lo Stato li assume ora lui in forma di servizium regis, ospitalità, assistenza ad eserciti ed altre simili. Abbiamo poi inoltre per Bressanone tra i privilegi più importanti, nell'892 e nel 1048 la concessione di banforte, bandite di caccia, e abbiamo discusso ieri sull'importanza di queste foreste, di questi diritti di foresta concessi da parte dell'imperatore, che riguardano un vasto territorio al margine della Pusteria, dalla zona di San Lorenzo in Pusteria fino a Millant nei pressi di Bressanone, con tutto il retroterra dolomitico. Sono il primo passo per una proprietà piena e per lo sviluppo di una colonizzazione che estenderà anche i diritti di giurisdizione in questa zona. A fine del 901 è la donazione al vescovo di Sabiona, ancora residente sul colle di Sabiona, della corte regia di Prisna, nel comitato di Rapoto, si dice. Dunque, proprietà che viene concessa, che diventa immunitaria, ma che non include automaticamente i diritti di contea, è nel comitato di questo conte Rapoto, che rimane il conte della zona. Nel 978 abbiamo una conferma, una serie di privilegi di conferma delle immunità precedenti ad opera di Ottone II. Non aggiungono nulla di nuovo, ma suppongono piuttosto una serie di difficoltà incontrate dal vescovo nell'esercizio delle immunità possedute. E quindi l'imperatore sottolinea più direttamente le competenze del padrone della immunità e il fatto che esse si estendono agli homines ecclesiae dovunque essi si trovino. Non contiene invece un aumento entitativo della immunità stessa. Dunque, la giurisdizione criminale e la giurisdizione sui semi liberi e sui liberi precaristi rimane ancora al conte. Nel 1004, ad opera di Enrico II, abbiamo la donazione di un possesso molto lontano dall'ambiente bressanonese, in Carniola, nei pressi di Veldes, presso il lago di Bled, con aggiunta di un ulteriore complesso di competenze sui territori adiacenti nel 1040 ad opera di Enrico III, che concede il bando forestale su una serie di territori adiacenti. È il primo caso dove la concessione dell'immunità è contemporanea alla concessione del bene stesso. Veldes è concesso in proprietà e la concessione della proprietà contiene anche il riferimento alla immunizzazione. Seguono una serie di conferme in sostanza 1111-1151 che ripetono quasi ad litteram i documenti dell'anno 978. per completare la serie c'è molto più tardi una conferma dei diritti immunitari da parte dei conti duchi del Tirolo del 1402, che si vede era stata sollecitata anche qui per corroborare le immunità localizzate troppo lontane dal ceppo centrale, in particolare Veldes, Lagundo, presso Merano, eccetera. Allora, alcune osservazioni conclusive. L'ambito delle immunità, al quale viene a sovrapporsi e a intrecciarsi quello più ampio della contea, dopo le lunghe vicissitudini dei secoli seguenti, finirà ancora per coincidere pressappoco con l'ambito del territorio rimasto sotto l'autorità vescovile dei vescovi fino alla fine. Io di questo fatto non saprei dare una ragione, ma il fatto è che l'area del Principato Vescovile di Bressanone, quale l'ho descritta per l'anno 1803, quale è restata in mano al Vescovo, dopo insomma, le molte vicende del secolo XIII, XIV, grosso modo risponde a quelle che erano le aree immunitarie ricevute in questo tempo, naturalmente per la parte che è più vicina alla sede vescovile. Avverto anche che il vescovato di Bressanone nei secoli XI, XII è stato arricchito grandemente da una serie di acquisti anche da parte di privati e di dignitari, da una serie di compere e permute che si disperdono in un raggio che va molto al di là di quello che è l'ambito della contea o l'ambito della diocesi. Ricordo soltanto il conferimento alla diocesi al vescovo di Bressanone della abbazia di Disenti nei Grigioni, che poi si è dimostrata impossibile da governare, però e che è altrettanto lontana da Bressanone questo quanto lo è questo possesso immunitario di Veldes a cui ho accennato prima. Dunque, ecco, da un lato una serie di uno sviluppo intero che è legato allo strato della immunità. A questo si aggiunge lo strato della contea, iura comitatus. Non si hanno, come ho detto, prove per l'esistenza di territori con alta giurisdizione, con poteri comitali veri e propri, o di giurisdizione sui liberi prima del 1027. Il 7 giugno 1027, pochi giorni di differenza dai diplomi già citato per Trento, Corrado II conferisce i diritti di contea sulla regione che ho descritto prima, Norital e quousque extenditur in Valle Emiana, la Valle dell'Inn. Noto però che in questo diploma, che non manca di discussioni circa l'autenticità, eccetera, che adesso io non posso seguire, ma che nella sua sostanza, nel fatto va accettato, ha una formulazione notevolmente più leggera che il conferimento al vescovo di Trento. Non parla di ducati, di marchea, ma dice solo in proprium tradimus comitatum quendam o quondam vel foni comitum. Conferiamo il comitato. E l'anno seguente, nel 1028, segue un conferimento della dogana di Chiusa, poco sotto Bressanone, che viene detta in comitati Engelberti. Probabilmente il vescovo in questo anno che c'è stato di mezzo ha già conferito i diritti comitali a questo Engelberto, che era fratello del vescovo. Nel 1091 ho citato il conferimento del comitato di Fusteria. Nel 1179 seguono una serie di aggiunte di diritti di regale, istituzione di dogane e pedaggi, alta giurisdizione viene più esplicitamente riconferita, diritti di molino, di mercato e di moneta. Nel 1189 diritto sulle miniere, regale diritto sulle miniere di argento, con riserva che l'imperatore fa però della metà del ricavato alla Camera Imperiale. Diritto che poi nel 1218 è stato allargato a tutti i metalli e anche al sale, comprendendo perfino le miniere da rinvenire in futuro. Allora, sintetizzando, i titoli di Bressanone non sono così completi come a Trento e lo sviluppo appare certamente più graduale. Manca per Bressanone, nei documenti di impianto, l'esplicito riconoscimento dell'autorità ducale e l'esplicita esenzione dal ducato, che in questo caso non è quello di Verona o di Carinzia, ma è quello di Baviera. Da qui è nato il problema di una soggezione o non soggezione dei vescovi di Bressanone al duca di Baviera, che più volte affiora fino entro il secolo XIII, perché vediamo i vescovi di Bressanone partecipare regolarmente alle diete del ducato di Baviera. Però vero è che questa, direi, associazione al ducato di Baviera non comporta un'effettiva ulteriore subordinazione e è piuttosto una formalità, per cui è da sentire, credo, al Cicer che nega una vera e propria subordinazione. Certo è che nel corso di tempo il modello Trento, chiamiamolo così, vero, che vede nel ducato una completezza di poteri conferiti, viene ad influire anche su Bressanone, contribuendo a creare anche lì un tipo di jus regalium che include, riassumendo, primo, l'estinzione di precedenti diritti feudali dei conti e dei duchi sul territorio. Secondo, l'obbligo di servire direttamente l'impero. Completo il capitolo ricordando più che altro alcuni complementi istituzionali che conviene tenere presenti, che provengono dal quadro istituzionale generale. Primo di tutto, si è parlato di donazione. I beni e i diritti appaiono come donati in proprio alle chiese, perché gli imperatori potevano farlo a cuor tranquillo prima della lotta per le investiture e del concordato di Worms, in quanto erano loro che ad ogni vacanza conferivano poi i vescovati. Non era la donazione, non andava fuori di casa. Invece, dopo il concordato di Worms, la situazione viene a mutare, in quanto non è più così messo nelle mani dell'imperatore, però la possibilità di nominare i titolari. E a questo punto si evolve una specie di una vera e propria investitura, allora in poi si parla di una investitura dei diritti temporali ad ogni nuovo vescovo eletto. Investitura che viene concepita nelle categorie della infeudazione. I vescovi sono vassalli dell'impero, vivono secondo il diritto feudale, con l'unica differenza che costituzionalmente essi non sono ereditari. Di questo fatto è segno esterno l'investitura che viene praticata normalmente per ogni nuovo vescovo fino al secolo XVIII, che è una certa parentesi col vescovo Egnone da Piano dopo la morte di Federico II, che appare nominato dalla Santa Sede e da quella fonte investito di tutti i diritti, cerca, prende possesso e cerca di affermare la sua posizione nel vescovato senza aver mai richiesta o ricevuta l'investitura imperiale, a quel che si può vedere, ma altrimenti l'investitura di ogni nuovo vescovo da parte dell'imperatore, che avviene regolarmente prima della consacrazione, secondo la norma della Dizio Germanica, è costume e norma fino alla fine del Principato. In quanto a documenti espliciti, tuttavia, non abbiamo molte prove antiche. Il documento più esplicito che descrive il modo come si celebrava l'investitura dei principi vescovi riguarda Bressanone per l'anno 1240, investito, donde appare che l'investito veniva investito con cetro e bandiera. Dunque, cetro che indica l'autorità giudiziaria e le regalie in genere, la bandiera che indica l'autorità militare in servizio dell'impero. Pan and Leo sono i due principati vescovili. Per Trento abbiamo piuttosto descrizioni del come procedeva la investitura attiva, cioè l'investitura che il vescovo dava agli avvocati e ai conti di Tirolo, dove vediamo che anche le bandiere esercitano un certo ruolo. L'investitura di Mainardo II nel 1259 e l'investitura ai suoi figli nel 1307, fatta in modo solennissimo, avviene mediante il conferimento di 5 e nel secondo caso di 7 bandiere di Gendado Rosso. Ancora per quanto riguarda complimenti istituzionali, ricordiamo appena che la situazione orora descritta viene integrata dagli statuti generali di Federico II del 1220 nella Confederatio con Principibus Ecclesiasticis e di Enrico VII nel 1231 con lo Statutum in favorem Principum, che riconoscono ora su un piano generale la sovranità territoriale, il principato, e completano la lista delle regalie con la concessione delle ultime regalie che ancora rimanevano al re, diritti di spoglio, regalie delle rendite intercalari, dogane, monete, mercato, castelli, eccetera. I due vescovi hanno seggio normale nel Reichstag, a quel che si vede, al tempo dell'organizzazione più definitiva siedono sul banco dei 32 principi ecclesiastici, ho letto da qualche parte al 15° e al 16° posto, ma se ho capito bene quello di Bressanone in alternanza con quello di Basilea, il seggio viene dunque occupato alternativamente. Appartengono poi sia Bressanone che Trento fino dalla fondazione al regno germanico, con una sola parentesi per Trento sotto Federico II, che appunto aveva trattato in modo diverso Trento da Bressanone col proposito esplicito di scorporarlo dalla dizio germanica e incorporarlo al regno italico, però è una parentesi che poi è stata subito recuperata, perciò a mio giudizio non si pone per Trento il problema che è stato posto molto giustamente per Aquileia, se insomma il vescovo principe ci faccia parte del regno italico o del regno germanico. E veniamo alla amministrazione dei poteri temporali nei primi due secoli, dal 1027 al 1236, cioè all'esercizio effettivo, a ciò che riusciamo a dire sulla realizzazione, sulla attuazione o minore attuazione di questi diritti. Per Bressanone la documentazione ci riferisce con maggiore ricchezza di particolari lo sviluppo concreto dei poteri vescovili durante il primo secolo dalla concessione della contea. È molto percettibile a Bressanone la distinzione tra le competenze connesse alla immunità, al patrimonio immunitario, Grundherrschaft, e lo strato di competenze invece pertinenti alla Grafschaft, cioè alla contea. Sembra collegarsi più direttamente, come abbiamo sentito anche stamattina, al primo strato la funzione degli avvocati e piuttosto al secondo la funzione dei, chiamiamoli viceconti almeno per convenzione, conti derivati da questa concessione che in vertice è stata data all'estero, sottoconti, conti vassalli o delegati. Fino al 1165, come abbiamo sentito stamattina, le due funzioni non si fondono mai nella stessa persona. E segno evidente che viene presa sul serio, viene sentita e affermata quanto è possibile, direi, la coscienza che le due funzioni sono per sé antitetiche. Da chi deve difendere i beni della Chiesa l'avvocato? Ma primariamente dal conte che tende ad esorbitare. Quindi certamente non è sano mettere contea e avvocazia nella medesima mano. Confermo per ciò che vedo anch'io quanto è stato detto stamattina sugli avvocati di Bressanone. Veniamo a parlare di questi conti parziali, di questi sottoconti per quanto ne sappiamo. Conti dunque che hanno diritti comitali per concessione vescovile. Compaiono nel 1028 per Engelbert, che ho accennato, ho ricordato prima, fratello del vescovo Hartwig, per la zona in cui si trova Chiura. Aveva dunque diritti comitali per la regione di Chiura. Li aveva ovviamente dal vescovo che li aveva ricevuti l'anno prima dall'imperatore. Poi viene nominato nella seconda metà del secolo X un certo Adalbert, che esercita i diritti di contea nella valle di Isarco e nella media valle dell'Inn. Più discusso il ruolo e la posizione di un conte Ottone II di Andechs anche nella seconda metà del secolo X, perché appare padrone del castello di Amras presso Innsbruck, che poteva però essere anche sua proprietà allodiale e non semplicemente sede di comitato. A questi conti, nei rispettivi comitati, appare affidata generalmente l'amministrazione ordinaria della giustizia. La fusione delle due funzioni, come ho detto, si verifica per la prima volta intorno al 1165 per Bressanone, a seguito della estinzione della famiglia Greifenstein con Arnoldo II, famiglia che aveva la contea di Boltano ma fuori di territorio bressanonese e che aveva avuto in un primo tempo invece in Bressanone l'ufficio di avvocazia. Fu il vescovo Ottone di Andechs, 1165-70, che a quanto pare conferì allora al proprio fratello Bertoldo di Andechs le contee della Valle dell'Inn Inferiore e di Pusteria e insieme con queste anche l'avvocatia del vescovato. E in seguito a questo atto si verifica a Bressanone, come è stato detto molto bene stamattina, un declino della funzione avvocatiale concomitante ad un'ascesa invece della funzione comitale. La funzione dell'avvocato come tale va piuttosto declinando e diluendosi anche in quello che sarebbe stato l'elemento suo proprio, ovviamente interessava molto di più lo sviluppo invece delle funzioni comitali che si prestavano più direttamente a costruire una autorità, una signoria di famiglia. Anche a Trento abbiamo in questo tempo avvocati e sottoconti, e quanto è stato detto stamattina sugli avvocati di Trento per questo primo periodo non posso che sottoscriverlo, non vorrei ridire male quello che questa mattina è stato detto molto bene. Per quanto riguarda i conti, sto dicendo che sono una, forse per chi non c'era, appaiono in una funzione piuttosto evanescente e certamente non proporzionata a quello che saranno i conti dopo Mainardo di Tirol. Non esercitano la giurisdizione criminale, come vedremo, non detengono il capitanato militare, prestano qualche volta il consenso ad alienazioni di beni o a disposizioni che potevano compromettere notevolmente i diritti del vescovato. Avvocazia di tipo italiano, di tipo tedesco, credo sia abbastanza facile catalogarla. Invece uno sguardo ai conti, ai sottoconti, ai conti parziali. Per la Venosta appaiono in tale posizione investiti in pieno della relativa contea, almeno fino dal 1140, preceduti da un certo Gerung, forse un loro antenato menzionato nel 1077, quelli che si chiameranno poi classicamente i conti di Tirol. E certamente ad essi si applica il concetto espresso nel lodo imperiale che ho citato prima del 1184 e in sentenze successive, si qui comitatum aliquem per vos, per il vescovo, abo. Se uno dunque ha una contea dal vescovo, et eum de vestra concessione ita sibi totum denis, decime, ut in eo nisi il penitus sapeatis, dicet in eo sine vestra licentia cassime edificare. Se la Venosta fu conferita nel 1027 al vescovo di Trento, certamente si trovava poi in questa condizione, cioè completamente assegnata ai conti di Tirolo. Ma dentro il comitato di Trento vero e proprio troviamo altri conti. Troviamo i conti di Appiano, la stessa famiglia che poi ha una diramazione, i conti di Ultimo, probabilmente di famiglia Guelfa, imparentata col Veltone spodestato nel 1027 e con la famiglia che nel 1070 assumerà il Ducato di Baviera. Questi poco dopo il 1100 appaiono infeudati nella regione Appiano e Val d'Ultimo, appartenente, non notiamolo, al Ducato di Trento, cioè l'ultimo lembo da quella parte del vecchio Ducato Longobardo che sulla sinistra dell'Adige saliva fino a Lana e aveva il suo confine pressappoco nella zona della corsa attuale, che tutti sanno dove si trova, parte occidentale. Questa regione, quest'angolo in cima, è infeudato ai conti di Appiano. Abbiamo poi più all'interno del vecchio Ducato Longobardo il caso stranissimo della piccola contea dei conti di Flavon. Sulla carta la ritroviamo, un piccolo nucleo dentro in mezzo alla valle di Non, quasi un enclave, che non si sa ancora bene come siano piovuti lì, si trovano lì con autorità comitale, cioè senza nessuna dipendenza da una supremazia vescovile, probabilmente per parentela con qualcuno dei vescovi di Trento del primo periodo dei poteri temporali. Qualche studioso li ha messi in relazione con Udalrico I, se non con Udalrico II, forse i due erano parenti tra di loro, il Davide I e il Davide II, quindi dal 1027 quelli lì avrebbero ricevuto una piccola contea che si esimeva, si stracciava dal territorio vescovile complessivo. E per quanto riguarda invece la contea di Bolzano, il comitato di Bolzano, è stato già accennato indirettamente, la troviamo conferita prima ai conti di Greifenstein, che in un secondo momento si chiamano di Greifenstein-Moritz, da un altro castello loro proprio presso Terlano, e al loro estinguersi verso il 1165 questa contea passò ai Tirolo, che la ebbero, e da lì in giù che abbiamo notizia positiva, sul loro modo di possederla in consortalità con i vescovi, in quo societatem vel comunitatem abetis. La localizzazione è più nostra, ma se è stata fatta questa grossa categoriazione, certamente risponde alla situazione che noi troviamo. La fusione delle due funzioni in forma permanente, avvocazia e contea, avviene anche a Trento sulla metà del secolo XII, col conferimento della contea al Tirolo. Bertoldo di Tirolo è il primo avvocato che risulta menzionato della famiglia con questo titolo. Da allora, mentre la documentazione nostra diventa sempre più abbondante, la presenza dell'avvocato e della sua funzione diventa sempre più rara, sembra quasi volatilizzarsi. Anche qui ovviamente l'attenzione principale, più che allo sviluppo delle competenze avvocaziali, è volta alla costruzione del potere dinastico, benché tutti gli aspetti qui non si possono certo considerare chiariti. Il caso menzionato, ricordato stamattina, del modo come Trento affronta la vacanza, la strana sede vacante dell'anno 1205, dopo la rinuncia del vescovo Corrado di Beseno, in un'operazione in cui Alberto di Tirolo compare e si mette chiaramente alla testa di tutta la consociazione, la coniurazio, comprendente il capitolo, eccetera, che mette le premesse per la nuova elezione vescovile e che poi influisce, guarda caso, finisce per eleggere vescovo uno zio del conte di Tirolo, Federico Vanni. Certamente qualche cosa c'è sotto, benché negli atti relativi Alberto di Tirolo compare, ma non compare qua tenuto avvocato, non agisce, però appellandosi, rifacendosi esplicitamente a titolo di avvocato. La concentrazione delle due funzioni, avvocatiale e comitale, crebbe ancora enormemente quando nel 1214 e nel 1248 i Tirolo a Brestanone subentrarono aliande nel comitato e nell'avvocatia. E la concentrazione raggiunse proporzioni ancora più schiaccianti quando pochi anni dopo, nel 1248, il Tirolo divennero anche eredi dei possessi e dei diritti degli Epan, dei conti di Appiano, con tutti i loro feudi e le loro proprietà alloggiali. Certamente è questo fattore di potenza politica che fa nascere un nuovo tipo di avvocazia, che dà al titolo avvocazia tutto un altro substrato, tutto un altro contesto. Con i conti avvocati abbiamo, intanto precisamente con la funzione dei conti, abbiamo visto intanto una parte di territori affidati ai vescovi che fuoriescono in certo qual modo dalla loro competenza e stabilmente, definitivamente. I territori rimanenti a disposizione dei vescovi, per essi diventa decisivo il ruolo della classe dei ministeriali o della nobiltà inferiore. La condizione e il ruolo dei ministeriali sono stati studiati, è stata studiata molto ampiamente dal Bressanone, dal Pfeifmeier. Per Trento è stata meno studiata, forse perché l'impostazione, partendo solo da Trento, era vista in termini diversi. Proviamo un po' a riassumerla. Per Bressanone l'origine dei ministeriali appare ancorata a una duplice radice sociale. Da un lato alla esistenza, in tempi arcaici, di liberi precaristi, di liberi possessori, ad episcopatum pertinente, sul tipo di quello che si è riscontrato per San Gallo, di cui c'è qualche testimonianza dell'esistenza nel secolo XI, per esempio nel 1043 nella Valle dell'Isarco, alcuni di questi vengono esentati esplicitamente dalla giurisdizione del conte e dall'obbligo militare sotto di lui, e appunto perché ad episcopato impertinente. Ovviamente simili elementi liberi venivano assunti ad esercitare uffici ministeriali per la corte vescovile, sia uffici di amministrazione, sia uffici servizi di corte, sia servizi di carattere militare. Taluni di questi ministeriali hanno anche costruito castelli a loro spese, possiedono feudi e alloggi. L'altra radice è quella dei familiari non liberi di nascita, ma qualificati per servizi analoghi, amministrazione, servizi di corte e servizi militari. Lo stato dei primi, dei liberi, a Bressanone scompare sugli inizi del secolo XII, per fondersi insieme coi secondi in un'unica categoria, che per la prima metà del secolo XII forma una sezione peculiare della famiglia vescovile in senso largo. Alla famiglia vescovile in questo tempo appartiene anche il capitolo cattedrale. Invece verso la metà del secolo II la loro peculiarità anche in seno alla famiglia vescovile si evolve così marcatamente da costituirli ormai in uno stante, in uno stato ormai distinto e staccato dalla famiglia, in un consorzio con proprio istituto giuridico ministeriali e il resto diritto dei ministeriali, pur essi pur permanendo in una condizione teoricamente semilibera, che implica come tale limitazioni nel campo patrimoniale, non possono scambiare i loro beni con chi vogliono, ma solo entro la cerchia dei ministeriali, e nel diritto matrimoniale, per la stessa ragione, per impedire che beni a loro affidati escano dall'orbita della famiglia stessa. I ministeriali acquistano però di fatto una condizione che per professione, per condizione sociale, capacità di ottenere feudi e di possedere alloggi, e per ricchezza materiale li equipara ormai ai nobili. Il numero e i compiti. A Bressanone è molto elevato il numero dei ministeriali e va incrementandosi fortemente, a quanto pare per una politica promossa dai vescovi stessi, che intendono così far fronte alle necessità amministrative sopraggiunte nel corso del secolo XI, agli aumentati compiti amministrativi per le molte donazioni da fissi, ai compiti militari, ricordiamo l'appoggio alla politica imperiale, vescovi di Bressanone accompagnano molto più frequente a quanto pare l'imperatore nelle sue spedizioni in Italia, persino nelle sue guerre contro gli Ungari e nella lotta per le investiture. Alla costruzione e al comando di castelli, si ha contemporaneamente un decentramento giudiziario e amministrativo dovuto in gran parte all'incremento demografico conseguente alla colonizzazione di questi tempi, nonché a servizi di corte a cui questi vengono addetti. Il servizio di corte, ricordo solo tra parentesi, a Bressanone è organizzato in modo classico con tutti i suoi quattro classi Hofämter, sia la categoria di Hofämter onorari, quattro duci erano camerarius, interna, eccetera, insomma di Bressanone, e poi anche con dei ministeriali che detengono in modo ereditario questi quattro uffici, cosa che a Trento invece si riscontra solo in modo molto frammentario, una gerarchia completa dei quattro uffici anche solo a livello effettivo non sono riuscito a riscontrarla. Questi Hofämter effettivi, sia i principali sia anche quelli normali amministrativi, sono esercitati nel secolo XI da ministeriali. Poi assistiamo sempre in misura più larga al fenomeno che questi uffici nel loro esercizio effettivo vengono lasciati volentieri ai familiari, mentre i ministeriali preferiscono soggiornare nei loro castelli dove esercitano il loro ufficio con molta autonomia. Dopo la accennata concentrazione di poteri e l'assunzione su più larga scala dei poteri comitali che vengono continuamente ampliati e riorganizzati da parte degli Andes e poi dai Tirolo, che contegno assumono i ministeriali bressanonesi? Un contegno che siede su ambedue le sedi. Partecipano sia come assessori sia anche come parte agli atti di giurisdizione esercitati dai conti, che fanno parte completamente del congegno dell'organismo rappresentato dai conti. Secondo, accettano dai conti comitia, cioè diritti di giurisdizione comitale ordinaria, di Landrichter, diritti che in molti casi esercitavano già prima sui loro fratelli, in quel decentramento di funzioni che era andato operandosi, e che però adesso in molti casi, in larga parte, viene desunta o viene esplicitamente riconosciuta in derivazione dal conte anziché dal vescovo. Da lui attingono almeno la giurisdizione criminale, dal conte. E con ciò abbiamo un evidente passaggio, una fuoriuscita, cambiamento di padrone da parte di molti ministeriali. Inoltre si lasciano condizionare e sollecitare in molti modi dai nuovi padroni. Ricordo solo brevemente i diritti corporativi dei ministeriali, in parte li ho accennati prima, ma a Bressanone i ministeriali appaiono una volta nel 1140 anche partecipi formalmente della elezione vescovile del vescovo Hartmann. Non è testimoniata una ulteriore partecipazione formale alle elezioni vescovili accanto al capitolo, in rappresentanza del laicato ovviamente, ma si sente che un certo influsso sulle elezioni vescovili da parte del gruppo dei ministeriali ci dovesse essere, anche perché pur avendo ormai davanti a sé la condizione del concordato di Worms che ripristina le elezioni canoniche, non è detto con questo che elezione canonica significhi chiaramente ed esclusivamente elezione ad opera del capitolo cattedrale. C'è un lento sviluppo che gradatamente attrae all'esclusiva del clero e poi entro il clero all'esclusiva dei capitoli cattedrali la elezione del vescovo, anche se il sigillo di questo sviluppo, che avviene a quanto mi pare nel 1213 con la bolla di Federico II, la bolla aurea dell'Libertate ecclesiastica, che sancisce ormai come legge universale la prerogativa dei capitoli cattedrali, sigilla un fatto, che un costume che ormai si è andato affermando, piuttosto che creare diritto nuovo. I ministeriali a Bressanone vengono gradatamente ad equipararsi ai nobili e diventano veramente gli arbitri della padronanza del principato vescovile, e sono quelli che, passando poi in una forma o nell'altra alle dipendenze dei conti di Tirolo, producono la estraneazione e l'inquadramento progressivo di gran parte del territorio rimasto agli vescovi nella compagine della contea tirolese. A Trento la cosa presenta analogie e differenze. Per il territorio di Bolzano, un lodo del 1208, ma è un caso particolare la contea di Bolzano, obbliga i ministeriali trentini, residenti in quella contea, a partecipare ai placiti ivi tenuti dal conte, per motivando questo con la famosa compartecipazione, che il conte ha nei diritti di contea con lei. Come stanno le cose invece nel territorio trentino, l'ex-ducato Longobardo? È ovvia qui l'esistenza di liberi milites e del Freie Ritter, proprietari di allodi e di feudi, che pure contemporaneamente detengono dal vescovo uffici ministeriali, amministrativi o di corte o militari. Sono tali, per esempio, i signori di Arco, che ancora nel 1186 giurano al vescovo nobiliter et libere, ut gentilis et nobilis vassallus, il loro giuramento di fedeltà. Questi non sono dei segni liberi, ma lo diventano. Gli Arco, a seguito della sconfitta militare del 1210, furono costretti ad entrare nella ministerialità rinunciando alla condizione loro di nobili liberi. I signori di Toblino, di Madruzzo, di Terlago, di Toro, di Cornate, di Beseno, eccetera, compaiono nei documenti che abbiamo già fin dalla loro prima comparsa come già inseriti nella condizione di ministeriali, ma certamente hanno all'origine loro una condizione analoga. I Castelbarco invece sono cavalieri liberi che ancora nel 1218 giurano al vescovo sicut ad fidelitatem capitaneorum et ad nobiles homines pertene. E difatti non entrarono mai nella ministerialità vera e propria con rinuncia dunque alla piena libertà. e come loro c'è una serie di cavalieri che pure gravitano intorno alla casa dei santi vigili e rimangono nobili e liberi fino alla fine, i Vanga, gli Eni, i Salorno, i Brenta, eccetera. Questo fenomeno nel Trentino è dovuto soprattutto al residuo delle vecchie arimanie longobarde con i loro capi centenari o scultati e con i liberi esercitali che diverranno semplici arimanni ma mantengono ancora almeno una libertà di diritto in modo che possono a lungo trovarsi in bilico tra l'ascesa alla milizia e la discesa al rango di familiarità. Comunque, anche a Trento nel corso del secolo XII si verifica la tendenza ad assorbire questi ingenui o nobili e simili nella compagine della famiglia vescovile, ma con maggior ritardo e con esito meno integrale che a Bressanone. Non si ha qui l'estinzione totale dei liberi milite, ma l'effetto viene poi a conguagliarsi con la ascesa dei ministeriali a livello di nobiltà. La famiglia a Trento porta il nome tecnico di Macinata, che è proprio per sé di ogni famiglia servorum, anche intima, come quella della corte rurale, altri servi sono di Macinata, ma dunque bisogna distinguere a quale Macinata uno appartiene. Il gruppo dei ministeriali, nella prima metà del secolo XIII, si contraddistingue dalle Macinate rurali come gentilis o nobilis Macinata. E qui naturalmente prevale, piuttosto che l'etimologia da maso, mansus, macinata, il modo generale con cui lo si intende nell'ambiente italiano, macinata, masnada, pattuglia di gente armata, seguito militare. I diritti e gli obblighi sono analoghi a quelli riscontrati a Bressanone: non abbandonare la macinata, non alienare i feudi, limiti al diritto matrimoniale, tema tutto da indagare, una partecipazione non formale ma effettiva alla elezione dei vescovi. Io mi chiedo come mai si spiega che mentre i vescovi precedenti alla metà del secolo XII provengono tutti da grandi famiglie germaniche ed estranee, i vescovi dalla metà del secolo XIII provengono, sono nominati dalla Santa Sede in un modo vario, invece i vescovi che vanno da Salomone fino a Egnone d'Appiano sono provenienti tutti da questo gruppo sociale dei ministeriali trentini. Ecco, la progressiva fusione con lo strato nobiliare vero e proprio, la vecchia nobiltà e i liberi milite, è a Trento tanto più favorita in quanto i familiari non sono soggetti a un loro diritto particolare di famiglia, a un hofrecht, sotto la giurisdizione del Fox come a Bressanone, ma sono soggetti al diritto feudale di vassallatico. Vengono regolarmente compensati con feudi, e l'eventuale pena per infedeltà è il ritiro del feudo. A Trento i ministeriali sono sempre in maggior numero, in maggiore misura, vassalli, nobili vassalli. Si può chiedersi se in questo sviluppo c'è un programma da parte dei vescovi, se i vescovi del secolo XI hanno avuto anche come a Bressanone una loro politica in questo riguardo. Credo veramente occorra cominciare col domandarsi se, perché è molto dubbio se i vescovi abbiano perseguito una politica sistematica, oppure se questo raggrupparsi anche di nobili liberi verso la casa dei santi vigili sia piuttosto un movimento centripeto da parte di questi personaggi potenti che riconoscono, ritrovano una loro convenienza, riconoscono una loro patria nel raggrupparsi sotto le ali del vescovo, perché si vede che con la medesima indifferenza nel Trentino settentrionale, nella Val d'Adige, i medesimi ministeriali preferiscono spesso raggrupparsi, gravitare con criteri analoghi intorno ai conti di Appiano o di Tirolo, mentre sono i milites del Trentino centrale e meridionale che per loro spontanea attrazione si orientano da questa parte. Ma se c'è una politica dei vescovi, certo si può chiedersi anche quali furono le intenzioni di questa politica e quali furono gli effetti eventuali. Circa le intenzioni sono state pronunciate varie teorie. Il Cusin insiste molto, per esempio, sull'idea che i vescovi promossero loro questo sviluppo, un potenziamento di ministeriali, per crearsi una base di appoggio nuova all'interno dei loro territori, non condizionata dalla volontà delle grandi famiglie dell'impero, ma sganciandosi da queste, costruirsi più un complesso di appoggi interni al principato stesso. Altri, come lo Jäger, propongono come intenzione l'idea che i vescovi abbiano inteso con ciò arginare la alienazione dei beni del vescovato, che col sistema della vassalità nobile aveva già fatto tanti progressi, alienazione delle contee che abbiamo visto, senza dare i frutti desiderati, acquistando piuttosto rivali che amici. Siccome i servi, in qualità di familiari, i servi erano incapaci per sé di possedere, avevano una capacità limitata di possesso, limitata all'autorità del Signore, quanto possedevano lo possedevano non immediatamente dall'Andrecht, dal diritto generale come i liberi, ma dal Signore e attraverso il Hofrecht e il Dienstrecht, attraverso dunque il diritto di famiglia, determinato dal capo famiglia, ecco che in questa maniera si avrebbe perseguito lo scopo di non lasciare andare fuori di casa questi patrimoni. A me pare che la cosa è molto discutibile, soprattutto per Trento, ripeto, già nel factum se ci sia stata una simile politica. Quali poi i risultati, anche se simile politica ci fu? Ecco, da un lato si registra effettivamente da parte dei vescovi nel secolo XII e XIII, a Trento più che a Bressanone, la tendenza a favorire e a sollecitare la cessione di beni allodiali o di beni controversi, forse allodiali, forse feudali, al vescovo, di fare in modo che molti di questi detentori di beni allodiali o discutibili li consegnino al vescovo, il quale a sua volta li riconferisce agli stessi possessori in forma di feudo, facendo così entrare i possessori nella partecipazione della casa dei. Politica largamente e sistematicamente perseguita per esempio da Corrado di Beseno. Poi uno sforzo costante da parte dei vescovi nel urgere la propria autorizzazione per la costruzione di castelli, torri, fortifici e per il riconoscimento di castellante, riservando al vescovo lo ius aperture, a condizione si consente di erigere un castello che questo resti aperto al vescovo. Poi da parte dei vescovi si nota una diligenza nel vigilare in genere contro la distrazione dei vari diritti vescovili, mute, dazi, esercizio di alta giurisdizione, diritti di ripatico, minerali e forestali. Però bisogna dire che il risultato è tuttavia molto scarso e deludente nel suo insieme. L'acquisto di beni e di diritti, congiunto spesso alle spese necessarie per una politica di forza, distangua le disponibilità finanziarie del vescovato, che deve ricorrere a prestiti, obblighi e nuove infedazioni per sostenerla. Così si motivano anche le accuse che incontriamo di alienazioni indebite che troviamo per il vescovo Alberto avvenute negli ultimi anni, negli ultimi mesi di sua vita e che probabilmente fu quella che portò il crollo del vescovato di Corrado di Beseno, che da un lato cercava di consolidare per queste vie il proprio potere, dall'altro però aveva talmente indebitato il principato da trovarsi in una situazione molto critica e da dover recedere. Sì, adesso io in pratica la conflittualità è praticamente continua contro i singoli ministeriali vassalli che non si subordinano all'azione di recupero dei diritti vescovili, anzi proseguono nell'usurpazione di nuovi. Essa è accompagnata da una conflittualità cronica fra i vassalli stessi, a cui i vescovi non riescono a portare rimedio e invece si ritrovano essi stessi inviluppati sempre di più guerre intestine e in sollevazioni di gruppi di feudatari. Ecco, vedo che devo accortare anche questa ultima parte per non abusare della vostra pazienza. Io qui parlo per questo periodo dovevo parlare ancora dell'amministrazione della giustizia a Trento, che è molto più centralizzata che non a Bressanone. Trento, per il territorio trentino parlo, mantiene fuori e fuori molto di più il ricordo di una compagine centrale e anche la comunanza di un suo diritto statutario che è proprio di tutto il Principato e che viene gestito, come è stato accennato già questa mattina, non dall'avvocato ma per il secolo undecimo da un iudex che ha questo ufficio in feudo e lo trasmette per diverse generazioni nella stessa famiglia, è una famiglia veronese della Bella che si riscontra fino alla metà, cioè fino al 1230 circa, anche quando di quella famiglia c'è poi uno che non ha i titoli, cioè non ha il titolo di la laurea in giurisprudenza, diremmo per esercitare l'ufficio, lo pretende ugualmente, ma gli si contesta che questo ufficio è legato ad una qualifica che consenta di poterlo esercitare. Senza nessuna difficoltà o nessun accenno di intrusione di una funzione dell'avvocato in questo esercizio della giustizia. Il sistema di amministrazione della giustizia è per quasi tutto il territorio trentino quello canonico o romano, dove il giudice da solo formula la sentenza. Solo due territori al margine presentano il sistema germanico degli stabili, della ricerca in comune mediante giurati della sentenza, ed è Fiemme che si riserva questo diritto nei privilegi che ottiene dal vescovo Geparto e poi dipende fuori e fuori, e poi la giurisdizione di Königsberg, che è già nella Valle dell'Adige, però nell'orbita dei tirolesi. Poi c'era un discorso sulla amministrazione politica, dove cercavo di precisare un po' i rapporti dei vescovi con i comuni rurali, la loro posizione che per taluni comuni e nei primi tempi si pone quasi al piano di compartecipi della trattativa, piuttosto che di signori veri e propri. Trattano con comuni che hanno ancora residui di istituzioni libere. Tutto questo però va atrofizzandosi molto forte in seguito di tempo, non per la prepotenza dei vescovi, ma invece per l'invadenza dei ministeriali che si fanno largo nei loro territori e da un semplice diritto di castellanza. Io devo scusarmi con l'amico Roger di avergli toccato la spalla, ma non è il tocco del Vangelo, perché guardavo l'orologio e pensavo che alle 6 dobbiamo riunirci un'altra volta per la presentazione del volume di Cicini. Adesso l'esposizione di Roger è inutile che ve la lodi, non più di 10 minuti, ma di orologio di sospensione. Alle 5, al massimo alle 5:02 lo riprendiamo. La prossima le relazioni dovrebbero uscire in volume a parte, tutti insieme. Poi la domanda, adesso rispondi tu. Io se può qualcosa, quindi chiedo l'ampliamento della conferenza sui rapporti tra il detto comune rurale che aveva appena accennato, in particolare con la Val di Fiemme, che è romana, o ovviamente longobarda, se questo ha portato qualche novità nella nostra regione. Certo, il caso di Fiemme ha un suo svolgimento che è particolare. Appunto che non mi stupirei che si avverasse quello che qualcuno anche sospettava, invece di essere uno statuto di tipo antico, che sia invece frutto di una colonizzazione relativamente recente, di tipo germanico, schiettamente al mondo, no? E che si è organizzata come tale. Non mi stupirebbe la possibilità di ipotizzare situazioni che lì è molto schiato, per quel poco che posso vedere io assomiglia di più a ciò che è normale invece in comuni occupati prevalentemente da liberi nell'ambito germanico, no? La proprietà comune dei vicini, poi il sistema dei giurati, che per il resto del Trentino è eccezionale, perché lì ci tengono morti. Quindi sarebbe una visione pre-romana, oppure no, pre-vescovile, o comunque di tipo schiettamente bavarese, insomma, no? Io direi di no, però. No? Dunque, quindi sarebbe, c'è un notaio qua a Trento, non mi ricordo più il nome, è stato mio scolaro a Modena e ha fatto la tesi di laurea proprio sulla Val di Fiemme, perché lì, come si chiama? Non lo so. Lumelli, qualche cosa di no. Oddio, non è più tanto giovane, perché è parato i 45-50 anni adesso. Ora, lì per la Valle di Fiemme ci sono degli elementi, però io con la tesi di laurea l'ho letto tanti anni fa e adesso non me la ricordo più bene. Ma direi che l'impianto della magnifica comunità è l'impianto tradizionale delle nostre università di laurea, come si trova in tutta l'Alta Italia e anche in parte nella zona femminile. La situazione, per esempio, l'esistenza dei giurati come persone che hanno una responsabilità nell'amministrazione dei beni comunali, c'è in tutta la zona alpina, o meglio nella zona di montagna del Friuli, e anche dove ogni paese ha uno, due o tre giurati che coadiuvano il merito nell'amministrazione. Quanto anche ai rapporti che intercorrono fra il diritto di sfruttamento dei beni comunali e l'esistenza di un gruppo vicinale paese per paese, anche questo lo troviamo in tutto l'arco alpino, dal Piemonte fino a Friuli. Cioè, ha diritto di partecipare allo sfruttamento dei beni comunali soltanto chi ha acceso fuoco nel paese, ma questa è una cosa normalissima. Chi esce dal paese perde questo diritto, lo riacquista se riaccende il fuoco. Questo lo troviamo anche in tutta la zona alpina. Quello che è interessante in Val di Fiemme è che si riattacca a posizioni precedenti, è la divisione dei vari distretti intermedi, delle comunità, che in generale è divisione, è chi porta i confini sulle acque, sui torrenti. E questo è piuttosto un confine preromano. Di più, anche in Val di Fiemme assistiamo a quel fenomeno che è generale nelle Alpi, cioè, come chiamarla, una excursio dell'uso dei campi, dei prati e soprattutto dei pascoli. da nord a sud, quindi e quelli della valle vicino alla Val di Fiemme, dietro la Femalca da lei. Non mi ricordo. Lì c'è la Valdega che porta verso la Valle dell'Isarco, no? Ecco, la Valdega. Quelli di Valdega hanno diritto di pascolo sotto la Femalca, nella parte bassa. Quelli della Val di Fiemme hanno diritti di pascoli nelle vallate a sud della Vigio, cosa che si spiega facilmente. Questo fenomeno lo troviamo per esempio nella Carnia, abbastanza diffuso, l'ho potuto bene constatare nelle Alpi centrali, Brennio, Leventina, eccetera, l'ho trovato in alcune valli piemontesi, e si spiega perché c'è una alternanza di pascolo caldo o pascolo freddo, naturalmente è quello dove la neve resta di più, pascolo caldo è quello esposto a un'ablazione più rapida della neve. E ecco che allora i pascoli diciamo più recenti, di primo sfruttamento, quelli di primavera, diciamo, da aprile a maggio, giugno, sono quelli di sud, perché la innevazione è scomparsa più rapidamente, la germinazione dell'erba è stata più rapida, quindi al mese di maggio o al mese di giugno il pascolo è già pronto. Nel mese di luglio e di agosto gli armenti valicano il confine e vanno nei pascoli freddi di notte, e poi eventualmente a settembre tornano in giù. Ed è un fenomeno, come ho detto, normale. L'ho trovato anche nell'Appennino, dove naturalmente la situazione è rovesciata, perché sono i paesi del sud, per esempio della Toscana, che hanno i pascoli al nord, nei territori di Modena, di Reggio, di Parma e di Piacenza. E in Val di Fiemme esiste esattamente la stessa cosa. Soprattutto quello che è interessante è anche la confinazione. La Vigio, lo sapete, è divisa in tre sezioni, Fassa, Fiemme e Cembra. E riesce un po' difficile capire perché c'è questa divisione. Ma l'anno scorso, facendo un sopralluogo in quelle valli, me ne sono reso conto. Intanto la Valle di Fiemme cessa a una stretta, adesso non mi ricordo più il paese, dove la Vigio casca. Fino a un certo momento la Vigio è in fondo valle ed è un fondo valle largo. C'è questa stretta dove c'è una cascata, una caduta, e la Vigio si infossa e di lì comincia la Valcenza fino alla Vigio. Infatti la Valcenza è una valle praticamente pentile, è molto alta, e i confini comunali logicamente passano sul fondo valle, che nessuno va a vedere perché è 200 metri sotto. Tra Fassa e Fiemme c'è un altro confine naturale, cioè c'è la confluenza nella Vigio quasi perpendicolare di due torrenti. Anche se effettivamente tra Moena e l'attuale Val di Fiemme non c'è una grande differenza, però c'è questa differenza di collettore dei fiumi. Il confine è non sui contrafforti, ma sui fiumi, sull'acqua. Ora, il confine sull'acqua è un confine preromano, indubbiamente, perché lo troviamo in tutte le zone dove ci sono stati i tempi. Possiamo, io penso che si possa, che proprio la formazione basilare, non soltanto della Val di Siena, ma della Sembra e della Val di Fassa, è preromana. I romani non hanno fatto altro che continuare l'ordinamento che trovavano, perché era l'ordinamento più logico. Io direi che per molti versi i fatti con la Val di Fiume non sono effettivamente dissimili da quelli che si fanno con Nago, con Ledro, con Rendena, eccetera, insomma ci sono molte somiglianze. Però due cose ci sono che le differenziano molto forte, che sono solo di Fiume, con un'eccezione che dirò, rispetto a tutto il resto, ed è la patente della procedura giudiziaria, Gattardo che viene mandato su. Ma più ancora appunto la partecipazione, il giudizio collettivo dei giurati e non la non ammissione mai del giudice, insomma, che fa la sentenza da solo. E l'altra è la questione della regolaneria maggiore, del regolano. Chi è che ha diritto di convocare l'assemblea popolare e che ne convalida le decisioni? Per tutto il resto del Trentino si accetta il principio che il regolano maggiore è vescovo e che la regolaneria può venire anche intendata ad altri, no? E quindi è il cappellano, il ministeriale onnipotente col tempo, che insomma convoca quando vuole e fa decidere ciò che vuole, almeno in larga parte. Ci sono due comunità nel Trentino che non accettano questo principio. L'una è il caso grosso di Fiemme, dove il regolano maggiore è un ufficiale della comunità e non si ammette delega di regolani secondari o di altri regolani. E l'altro è il piccolo caso enigmatico di Lerico, che non so perché pratica la medesima norma, anche se per il resto assomiglia a tutti gli altri territori che convicini. Queste due nette differenze trovo per Fiemme. Al di là di questo, la questione della comproprietà di boschi, eccetera, io amerei vederla veramente confrontata e analizzata in termini moderni. L'ultimo autore vero è il Cattore Montecroce, da confrontare quel regime lì con un autentico regime di Almende e con quello che succedeva in comunità liberi nell'alta valle dell'Inn, per esempio, no? E allora mi convincerei se insomma ci sono delle analogie, se non ci sono, perché altrimenti sento anch'io che si sta dando dei giudizi molto così all'immaginato. No? Cioè, c'è un Almende o non è un Almende in Val di Fiemme? Potrebbero esserci anche delle classificazioni. Stavate. Allora, la concetta di Almende, sempre strana a questa parte, come ha detto molte cose, si dice che la profonda religione, doppia la parete, doppia polemica da un lato, dall'altro lato, Benedetti ha voluto far risalire le tradizioni schiettamente italiche, addirittura preromane, una sorta di Almende anche all'Italia. Quindi la domanda forse era Almende o non era Almende? È molto cosa dici? Quando ci ricordiamo che i giudici tedeschi molte volte non sanno più bene oggi che cos'è Almende, no? Perché Alex in più e a loro volta prima in un grande blog, poi da noi Bognetti hanno voluto ritrovare nelle tradizioni celtiche, in caso italiano, proprio questo fatto di processo comune. Quindi non forse tanto è quello che si chiama Almende antico germano, si può vedere proprio nel basso medievo, il confronto che ripetiamo in situazioni di altri territori, devi sapere le caratteristiche di qualsiasi genere siano, anche di carattere terminologico soltanto, che permettono di collocare piuttosto in una tradizione e in un'altra, fare distinzione tra gruppi, ma senza chiedersi troppo le origini. Io credo soprattutto questo, che almeno o comunitas o bene comunale sono diversi nomi di uno stesso, di una stessa necessità che è dettata dall'ambiente. L'ambiente montano è a economia silvopastorile e non può essere che questa. E i pascoli sono quelli che sono da centinaia di secoli. In fondo, anche quando noi parliamo, per esempio, dei confini dei comuni, oggi sì, ci sono i confini segnati, ma dove arrivava veramente il confine in quel tempo? Non al crinale delle montagne, perché nessuno ci andava su, salvo che fossero dei dotti erbosi. Ma se prendiamo qui, con tutte queste benedette crete, queste montagne abrupte con grandi scoscendimenti di rocce, ma lì non ci vanno che quei matti bianchinisti come me. Ma per il male secco non ci vanno neanche. E il confine è fin dove si può arrivare. E cioè, all'inizio del bosco, neanche tutto il bosco, perché il bosco è usato soltanto nella parte più vicina al pascolo per poter trasportare la legnana, perché non vanno certamente a prendere del legname a 2000 metri quando ce l'hanno a 1800. Quindi per me è un problema in fondo un po' di lana caprina, che sia di origine germanica, che sia di origine romana, che sia di origine preromana, è di origine naturale. Sarebbe interessante se avessimo i mezzi per rispondere, ma no, possiamo, ma possiamo rispondere, però possiamo rispondere, perché quando vediamo un ambiente morenico, per esempio, come abbiamo visto ieri andando giù al lago di Garda, ma lì si capisce che c'è una possibilità di sfruttamento immediato del pascolo e del bosco, perché sono zone molto facili da sfruttare. Ma se andiamo un battenico, andiamo su verso la valle di Ambrato, E ci troviamo subito ai piedi del gruppo del Brenta, lì è certo che nessuno ci andava. Ora, di fronte a tutte queste difficoltà, non sarebbe meglio che, no, dico anche io, no? Ci occupassimo più a fondo di ciò che possiamo conoscere un po' meglio, basso medievo, la vivacità di queste comunità, certo, che siano a più delle Alpi, a nord delle Alpi, in mezzo alle Alpi. Noi vediamo che un fatto generale in tutta l'Europa, il mondo contadino si mette in movimento. Ecco, allora la domanda che mai vi avrebbe fatto di chiedere, di presentare, è questa: qual è la vivacità di queste comunità rurali nei secoli per i quali una documentazione tra il 13, tra il 14, il 15, per il segno in una documentazione che permette un'indagine. Mi permette, da quello che posso vedere qui nell'ambiente, si potrebbe fare una tipologia, mi pare che è suggerita da Jäger, di tre tipi teorici di comunità, no? Comunità prevalentemente costituite da liberi, comunità prevalentemente costituite da semi liberi o da colonie, comunque, o comunità miste, regimi misti. Io ho l'impressione che i documenti che stanno nel codice vanghiano del secolo XII, dove troviamo trattative dei vescovi con queste comunità, fatte quasi da Pius Saint, salvo sempre la supremazia di Vescovo, chiaro. Ecco, presuppongono comunità di tipo sostanzialmente libero. Invece, se guardo le carte di regola, come vengono fuori dal secolo XIV in poi, l'ambito della legiferazione di queste regole è limitatissimo. Si tratta di nominare quello che sorveglia i campi dell'uva, i confini dei campi, insomma lo statuto dei sindaci anche a Trento, la competenza più propria della comunità immediata è una competenza ridottissima che proprio riguarda questioni minime, naturalmente, e che dunque lascerebbero piuttosto supporre a quell'epoca un tipo di comunità dove l'elemento semi-libero, l'elemento insomma che risiede su terreni che non sono propri, che risiede su terreni antitetici o censuali, è prevalente. Io direi però, per non sono piccole questioni, probabilmente penso le corporazioni sono questioni molto importanti. Questioni vitali? Vitali. Ora, per esempio, dovrebbe essere interessante pensare questo. C'è qualche cosa di simile agli statuti comunali, rurali, così frequenti, di Monte, Bardia, eccetera? Cioè, queste comunità si sono date oppure hanno ricevuto dal signore territoriale degli statuti messi per iscritto? Sono queste carte di regola a cui accennavo, che cominciano però in registrazione scritta piuttosto tardi, cioè dal secolo XIV, sono rari i casi di prima. Anche gli statuti sono elencati, inventariati nel Sartori Monte Croce, del resto fa un bellissimo inventario alla fine di queste carte di regola. Del sì, parecchi. Sì. Ma però una sintesi che le veda anche di più sul punto di vista che ne stiamo importando, per esempio, io non la conosco. Le leggi di confine, documenti di vite, tra il signore territoriale, queste comunità, oppure fra comunità vicine, perso di quei confine. Quante ne vuoi? Perché hanno litigato sempre fino al 1940 e litigano ancora, e si litiga ancora, questo ve lo posso dire anch'io, ve lo posso dire perché qualche volta mi capita di fare delle consulenze, si litiga ancora per i commissariati degli giudici, che è un flagello d'Italia. Ma non hanno dei capi però, tipo i commissari dei nostri? Sì, hanno i merica, hanno i decani, cioè il capo della Virginia, che è nominato dalla Virginia, cioè dai capi di famiglia. Però con una regola che deve essere acceso di fuoco, cioè devono abitare continuativamente nella zona. Ci sono poi delle alcune particolarità, anche che ho adesso una mia allieva sta raccogliendo gli statuti della Carnia. Le donne sono escluse dalla successione. Ma ci sono naturalmente sono escluse definitivamente se sposano un foresto, uno che non è della Virginia. Poi la questione della composizione sociale, che è una tradizione di no. All'interno della comunità? No, lì sono tutti bravi contadini di uguale potenza economica, non c'è nessuna. Se mai i limiti sono incorporati, questo non è quello stato. No, questo lo troviamo in alcuni paesi della Lombardia, dove il capitolo, aspetta un momento, 25 delle consuetudines civitatis medievali fa il caso di beni, boschi e pascoli. Ma io mi ricordo. In Trentino non lo so, ma... Qui ci sono proprietà immunitarie dipendenti dalla chiesa o da nobili, dove sul posto ci sono i casuali, ci sono gli abituali, questi cittadini di condizione diversa, che fanno parte della comunità locale. In quanto possessori, ma non in quanto privati. Sì, c'era dunque non ci sono beni di monasteri considerabili sul posto, a differenza delle diocesi germaniche, e non saprei a che fattore attribuirlo, perché ci sono memorie di antichi possessi di monasteri bresciani, per esempio anche di Bobbio, abbiamo visto ieri in giudicarne. Ma da quando noi abbiamo una documentazione nostra non si trova più traccia di queste cose. Dunque ci sono i casi che ho accennato del capitolo di Verona, giudicare con un capitolo molto distorto. Dopo ci sono alcuni possessi della chiesa di Verona anche in Valle dell'Adige, ma altrimenti nel Trentino non i monasteri, forse se c'erano monasteri del primo millennio, si sono completamente volatilizzati. Altra fondazione che ha attinenza al problema della riforma ovviamente sono le fondazioni della metà del secolo XII, con Altemanno che porta a Trento i canonici regolari. Lui è molto affezionato a Suden, a Passau, eccetera, proviene da quei circoli, e fonda 1145 San Michele all'Adige. Pochi anni dopo si fonda l'altro monastero di canonici regolari a Bolzano. Pochi anni prima, in quegli anni, è stato fondato Neustift per Bressanone, no? Per Bressanone. Ma altrimenti si sa, per Bressanone nella zona esiste San Candido, Inicent, da molto tempo prima come territorio di Frisia. Ma molto piccolo. In proporzione sono molto più piccoli e insignificanti i molti beni di abbazie oltre Alpe, bavaresi e wittenbergesi nella zona di Bolzano, di cui si hanno molti documenti, ma si tratta di un vignale, si tratta di un piccolo appezzamento per la produzione del vino, dove io non so fino a che punto giochino un ruolo le immunità e così via. Per la parte trentina se ne sente parlare molto poco. Non si potrebbe pensare che è un rischio tra la debolezza dell'aristocrazia locale, che in Germania ha fondato monasteri, appunto, non soltanto per dire anime o per anime, ma anche come punto di appoggio della propria potenza. Io confermerei questo, perché vera antica aristocrazia locale, Trento ha visto che non c'è niente, perché i Flavoni probabilmente sono venuti con una di queste famiglie di vescovi. Forse da Lunga o chissà, insomma, no? Gli Etan sono Wenzel. Il Tirolo sa meglio di me, insomma, dove sono, e basta, qui non c'è nient'altro, no? Di vecchia novità. Una Pirea è nella diocesi di Aquileia è stato tutt'altro. Ah, sì. Sono però, monasteri, ma anche. Però i monasteri sono tutti nella bassa. Tutto nella parte, perché l'unico monastero di una certa importanza è quello di Moggio, che nasce alla fine dell'undicesimo o ai primi del dodicesimo. Il Santa Maria di Verona, e così anche. volete venire, volete venire. Se vi chiedete il padre Cortese, se la vedi in piccolo modo. Se la vedi in piccolo modo. Esatto, esatto. Allora, non so, la vedi in piccolo modo. Allora, non so, la vedi in piccolo modo. No, io ho conosciuto Renato. Mentre invece c'è una certa fioritura di monastere in carenza. In carenza, ma non nel Friuli, l'unico monastero è quello di Moggio. Moggio, sì. E poi veniamo giù addirittura a Civitale, il monastero maggiore, e poi scendiamo nella Bassa, il monastero di Santa Maria di Aquileia, il monastero della Bediglia, dobbiamo dare la parola. Tutto questo è stato il padre, tutto questo. Bisogna proprio arrivare a fare una cosa con solchen Adelsfamilien, die wir ja auch hier im 11. Jahrhundert fassen können, dass der Aufstieg solcher Dynastien sehr häufig verbunden ist mit der Stiftung eines Klosters, das unter anderem dann als Grabmäher für diese Familien dient. Offensichtlich ist dies ja hier nicht gesehen, das ist ein Unterschied zur deutschen Entwicklung. Mich würde einfach mal interessieren, wo sind denn die frühen Gräber, etwa der Tiroler oder der Epaner? Das war bei Kirche oder bei Mutter oder Dame. Die Grafen von Tirol waren auf Schloss Tirol gebracht. Also auf Tirol ist auch die Geburtshalle. Die sind dann so anstalliert worden, weil einer den zweiten Erstand. Aber andererseits, die Grafen sind in Tirol. Das heißt, für die Epaner, weil er sich dann nicht wieder sehen. Il padre è il nostro specialista per la Valle di Siena e di Parma. Sono un pastore di Pecore, quindi sono abbastanza bene anche. Ma Pecore, qualunque che... Sì, ha di capire. L'interno di Siena ha un problema che ho preso considerare già da tanti anni. Che comprendo elementi istituzionali nella Valle della Biblia, cercando di coprire da che parte questi sono venuti, mi sono venuto davanti un'idea particolare, cioè, siccome in Vaticano, per esempio, ho trovato degli elementi istituzionali che provengono dal Veneto, da cui non riguarda, particolare delle chiese che con ogni comunità provengono da zona di Aquileia, il fatto di mettere assieme, collegare vari elementi, e ho pensato questo. Come nel Friuli, i Longobardi, nel loro ingresso verso la pianura, hanno tutti cercato, dopo aver occupato i musicali della zona, di prevenirsi contro possibili invasioni dal nord e dall'occidente con delle corti o delle torri con delle armanie, delle armanie, ho scoperto che anche nella zona di Trentino, invece di organizzare il Trentino dal sud verso il nord, da Trento, l'hanno organizzato invece come difesa del Veneto, dal Veneto verso la zona verso la quale potevano venire i Longobardi, cioè i Franchi e i Mariuvali, verso la zona di Bolzano, cercando di unire come avamposti i castelli Giappiani, Giuliani. E troviamo infatti nel Medioevo un collegamento tra le zone della Valle della Biblia e l'Isarco, la Valle di Isarco e la zona di Giuliano e Giappiano. Cioè la comunità di Teme forma un'unica battaglia con Giuliano ed è obbligata la comunità a mantenere il castello, che era un campo che manteneva in carico il castello. Così anche tutta la di fronte a Bolzano, ma non guarda la attraverso la valle del Isarco e la valle del Angela. Cercando di avere riferimenti e scoprire una possibile, diciamo, collaborazione militare dei Longobardi. A me è la chiave della presenza di un'organizzazione anche comunitaria con caratteristiche lombarde, nella parte di Sparta, e anche la comunità, come quella di Vieni, anche se non è magnifica perché i poveri non possono fare la dirigente, statuto autonomo anche quello, vedete le elezioni con il Messalone come segni di contratto, e poi troviamo anche in Vieni due gruppi ben distinti. Il gruppo della comunità, con Cavalieri Tempo, quindi la Fred Romana, e il Castello di Vieni, che faceva gruppo a sé, che aveva il degano, come va di fatta c'era il degano, oltre alla Turchi, la Vieni di Corte. Questi venti si fanno quindi pensare a una organizzazione venuta dal tempo, e questi anche in alcune volte si fanno dire questa cosa. Adesso, allora, lo chiedere a me, ecco, ho fatto così, dopo aver studiato un vicino ad anno. Ma quello che mi interessa molto è appunto il rapporto Fiemme-Firmano, che io non ignoravo completamente. Il rapporto anche Castello. Appunto. Castello a piano. Anche Fiemme a piano. Cioè, avevano collocato e obbligato queste zone, onerandoli anche di parte, come la di Basta, era collegata con il castello di Fabiola. Ah, yeah. Si pagava le tasse per sostenere il castello di Fabiola. Vediamo questa organizzazione. Ma queste sono notizie molto interessanti, molto importanti. Molto importanti queste. Che sono ignoto, o almeno io non le conosco, lei le ha pubblicate queste cose. Ma una che è una pena, e sono 10 anni che le inizio. Ma sarebbe bene mettere fuori qualche cosa, perché sono elementi di un estremo interesse. Perché appunto possono delimitare un limes militare di confine che potrebbe corrispondere abbastanza. Questa presenza, questo modo di agire in queste popolazioni, caratteristiche, e anche questa autonomia. Ah, beh, quello sì. Quello. Come si rimane? Potrebbero essere poi vecchie comunità legate, vecchie comunità che vengono legate a un sistema fortificato nuovo. O antico, perché poi Firmiano è il nome romano, romanissimo. Lo chiamano Castello Formigaro anche a piano per questo. Sì, sì. Castello Formigaro. C'è qualcuno che desidera? Tracco. No. Ah, lei. Che riporta la storia. C'è aggiunto qualcosa a quello che ha sentito da lei a proposito della condizione degli abitanti comuni rurali. Lei ha detto che le potenze sono tutti i contadini privi di visioni particolari. Ecco, io per quel pochissimo che ho visto, già all'inizio del 200 ci sono diverse unità trentine delle persone che hanno il titolo quasi ereditario, che di fatto è un titolo che si conosce quest'anno. Questo titolo di fer rispetto alla massa della popolazione, o addirittura di donne senza comunque i feudali particolari, cioè senza essere feudati ufficialmente di qualche diritto particolare, quindi che indicano semplicemente una richiesta maggiore oppure sicuramente un'importanza all'interno della comunità che altri non hanno. E questo si nota negli elenchi di nomi che ci sono quando vengono convocate le assemblee. Ecco, è molto frequente anche trovare numerosi notai già nel 200, nel corso del 200 e poi nel 300. Notai che però sono locali, non che vengono da fuori. Quindi una diversità che mi sembra abbastanza interessante, certo. Proprio all'interno di questi zone così lontane dai centri culturali, dai centri di commercio, di passaggio, ovviamente le zone trentine più lontane anche dalla capitale. E ancora ci sono comunità che sono proprietari di terre, che comprano con denaro fonante da ricchi saluti in Italia o da altri che spesso si sono disparsi di loro città o che sono costruite di parte. E da questo nascono grosse liti poi per i confini, per i rapporti tra le comunità, o anche eventualmente con il signore feudale più antico che non riconosce questa vendita. È appunto causa che lei ricordava prima, durano poi per secoli, non è? No. Sono cause che non terminano mai. Diese Kompanien vom Kaiser nicht nur Grafschaftsrechte übertragen haben, sondern Rechte eines Herzogs, sodass der Bischof sich selbst als Duc des Comtes bezeichnet, das verboten wird, dass ein Duc, ein Comte in diesem Gebiet Rechte ausübt. Das gleiche ist bei Briten nicht der Fall. Wir haben daraus beschlossen, dass die Zugeständnisse am Briten vielleicht nicht ganz so weitgehend sind, dass den Briten noch eine la formulazione però tra i due documenti è molto diversa da questo lato. E accanto a questo, mentre per Trento la soggezione a un qualsiasi duca non si propone mai, e invece il titolo Dux Marcio et Comex viene, è il titolo normale nel secolo XII, ecco, per Bressanone, ho detto, non è legittimo cavarne eccessive conseguenze, però c'è la frequenza normale e regolare alle diete del duca di Baviera da parte dell'escolo, che è, può essere anche concomitante in qualche maniera al fatto che Bressanone faceva parte della compagine metropolitana di Salisburgo, della metropoli bavara. Ecco, mentre qui insomma non si ponevano simili casi. Io più in là di così non ardirei indurre, ecco, sta solo il fatto. O che questo modello però, che il principe vescovo è sovrano, quasi dico, no? Ecco, che con ciò a Trento si comprovi fin dal 1027, mentre dalle altre parti diventerà una realtà in corso di tempo. Ecco, questo è interessante, è un modello che si riscontra. Io non so se questi, lei ha detto anche che in Germania questi casi dove ma subentra le facoltà che su quel luogo avevano i duchi, ma se questo viene concepito come veramente un fatto che rende quello che più tardi verrà chiamato Reichsmittelbar. Nel caso nostro è evidente che con una simile fondazione, con una simile base, questo qui ha un'equivalenza alla Reichsmittelbarkeit fino dal 1027. Equivalenza, dico. Sì. Aber ich muss einen Studien, also da bin ich sehr unsicher in der Terminologie, nicht? Soprattutto tedesca, mi arrangio come posso e la mia. Abbiamo, sì. Lei mi diceva prima che in realtà non si trovano, almeno non è a conoscenza di documenti che comprovino il titolo ducale nel XII secolo. Oppure io ho inteso male? No, no. Anzi, nel XII lo trovo. Il vescovo Tebardo, quando fa il famoso privilegio di Siena nel 1111, si dichiara Dux Martio Prodest. Mancano i diplomi per gli altri, però ci sono i diplomi vescovili che attestano di... Quanto meno l'uso. Ah, sì, sì, sì, questo è molto importante. Quando alla Reich Unmittel, questo non vorrebbe dire perché c'erano anche dei conti direttamente dipendenti dal potere. Intorno al 1180, quando Barbarossa dà una organizzazione all'impero, la maggior parte sono dubbi. Ma ci sono anche tutti i principi ecclesiastici e ci sono anche un certo numero di conti. Io direi che la differenza fondamentale tra duca e conte è più che altro di carattere formale. Se si è duca, si possono nominare dei conti. Se si è conte, non si nomina dei conti, ma dei conti. Ma è certo che quando, ad esempio, i conti di Savoia sono diventati duchi, non hanno avuto un incremento di potere, ma neppure tanto potente. Però i signori di Chalant sono diventati conti. Ma sì, cioè è questione di titoli. Sì, sì. Sì, sì. Ah, certo. Sì, sì. Il contenuto del potere comunitario non differisce dal contenuto del potere comunitario, però in quanto non può avere questa differenza. No, no. Non c'è di più. Questo è dato dall'Italia. E per le donne del vecchio regno di Borgogna. Bisogna vedere se è altrettanto vero per queste donne. Quali sarebbero i poteri ducali diversi da quelli comunitari? Io credo a parte questo io credo che non si sia indicato si debba fare una distinzione fra l'alto e il basso medioevo. No, diciamo, posso dire l'alto, no, posso dire la differenza del potere probabilmente non si potrebbe dire, ma il duca è sempre di rango più alto di un conte, e perciò vale la pena di ottenere il titolo, che lei dice che il titolo è più di un titolo, è un riferimento proprio di un rango robusto. E guarda, questo è niente a tempo. Grazie. Però Bainardo diventa duca, qualcuno o qualcun altro che deve dire. Ci sarebbe, intendiamoci, un interessante problema del reclutamento. In mezzo di un minuto lei si può dire il capitolo cattedrale nel periodo in cui i vescovi sono estratti dalla ministerialità. Il capitolo cattedrale è formato di canonici che vengono da questa stessa ministerialità. Per quello che posso dire confermerei in gran parte almeno. Bene, signori. Io posso citare soltanto nel precedente per Aquileia dice comitatum pro Iulii e villam lontanigam Lucenico professor Ictam omnesque benedictium quod ludovicus comitat ebat in eodem comitatis situm cum omnibus ad regalia et ducatum pertinentibus. Hoc est placidis collectis fodro dissessionibus in vertis amicius citatum, e just in uno modo posso riprovenire. Quindi di sentire sia pertinenti sia al conte, no? Sì, sia al duca, infatti. Adesso giustamente il collega la che ha un segno più forte, sì, sì. Morale, e anche superiore, e quindi può essere utilizzato politicamente. E di solito sono più di un comitato, no, il ducato. Sì, il ducato. Sì. Giusto, è meglio l'avere in mano più comitato. Allora, io sono le 6 meno 3, vi do 3 minuti in fila di vacanza. Poi dite che sono avaro. Ringrazio infinitamente ancora il nostro Don Monsignor Roger, grazie veramente, e tutti coloro che sono intervenuti. Ringrazio anche me perché non sono intervenuti. Allora,